creato prima di Dio. Lui è la mia, questa è la mia. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you.